voi siete veramente simpatiche. Oh, grazie Laura, anche lei, a dirlo. Ma lo so perché. Perché anche quando parlate di malattie o di denaro che si sta perdendo, voi ci date speranza. Ma il cielo è sempre più blu. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Test is fala baby, one, two, three, test is fala baby, one. Vi voglio sciolti, flessibili, snodati, ma non voglio che tiriate troppo la corda. Oggi non parliamo di corda, ma di corde, parliamo dei tendini. Cercheremo insieme al nostro esperto di capire come prevenire i problemi a queste strutture così importanti, ma al tempo stesso vogliamo aggiornarvi. Ci sono buone nuove dalla ricerca per chi i tendini li ha già lesionati. 800 24 00 24, se volete intanto prenotare i vostri interventi. E come anche come nei tendini, anche negli investimenti, nella gestione del risparmio, si sa, ebbene, non tirare troppo la corda, fare gli sforzi. Già ne facciamo tanti per arrivare alla fine del mese, no? E bisogna fare degli sforzi giusti, misurati. Come fare a capire allora qual è la scelta giusta? Naturalmente il primo passo è seguire le lezioni della nostra scuola di risparmio, la rubrica Investire Informati, il nostro cammino fatto insieme a noi, verso una maggior preparazione sui temi di carattere finanziario, che a volte ci sembrano difficili, distanti, e proprio ci sforziamo anche per cercare di capirli, e poi invece scopriamo che condizionano tutte le dinamiche della nostra vita. La nostra scuola di risparmio torna oggi a partire dalle 11.45 e ritorneremo sui temi del lungo periodo. Ma le gambe a me piacciono di più. Non solo nelle gambe, il nostro corpo ne ha più di 250, possono essere lunghi, corti, resistenti, un po' malandati, sfilacciati, sono i nostri tendini. Proviamo un po' a immaginarli. Sono delle strutture fibrose fatte di un'anima e di una guaina che li riveste. Alcuni sono famosi, li conosciamo bene, no? Altri invece magari non sappiamo nemmeno di averli, ma sono lì e condizionano la nostra postura, i nostri movimenti. Allora, raccontateci di quella volta che avete fatto i conti con uno strappo muscolare, con una fastidiosa tendinite, come l'avete riconosciuto e che cosa avete fatto. Oggi insieme al nostro esperto cercheremo di individuare come riconoscere e prevenire questi dolori, quali sono i fattori che ci mettono a rischio, quali sport possono aiutarci, anzi nel caso al contrario peggiorare la nostra situazione, ma soprattutto vi aggiorneremo sulle novità che arrivano dalla ricerca. Intanto salutiamo il dottor Gianluca Melegatti, medico sportivo e primario del centro di riabilitazione dell'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, che è in linea con noi. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno Deborah. Buongiorno. È un piacere essere con voi. Anche per noi essere con lei. Dottor Melegatti, iniziamo un po' a descriverli, no? Noi certo, proviamo, siamo portati a immaginare i tendini un po' come delle corde delle tapparelle, no? In realtà lo sono, perché alcuni tendini del nostro corpo hanno proprio la forma di tapparelle, altri invece hanno una forma diversa. Sono delle strutture incredibili, sono strutture anatomiche che ci permettono il movimento in buona sostanza, perché sono interposte tra il muscolo e l'osso e quindi trasmettono alle ossa la forza creata dai muscoli. Sono dei veri trasduttori e quindi rendono possibile il movimento ma anche la stabilità articolare. Sono strutture, dicevo, straordinarie perché sono molto complicate, sono strutture vive innanzitutto, quindi non dobbiamo pensare di considerare i tendini solo dal punto di vista meccanico o biomeccanico, sono strutture che, come vedremo, hanno una resistenza straordinaria, ma purtroppo si ammalano anche loro. Sono composti da una struttura gerarchica molto precisa, il cuore del tendine è una cellula che si chiama tenocita, che si occupa proprio della salute del tendine, perché produce la matrice extracellulare all'interno della quale questi tenociti, queste cellule navigano e stanno tranquilli e lavorano, oltre a anche produrre il collagene. E ci sono tante influenze su questi tenociti, influenza ormonale o l'influenza dell'esercizio, che modulano proprio l'attività di questi tenociti. Dicevo che è una struttura straordinaria perché è veramente resistente, ha un certo modulo elastico, come vedremo, perché un po' si allungano i tendini, ma di pochissimo, ma sono in grado di resistere a dei carichi di trazione veramente spaventosi. Le immagini che un centimetro quadrato di un tendine riesce a sostenere un carico che va da 500 a 1000 kg, cioè stiamo parlando di una tonnellata. Tipo Hulk, un pezzetto di marmo. Tendini di Hulk invece sono i nostri. Esatto. E questo naturalmente dipende un po' da quanti anni abbiamo, da quanto siamo allenati. Come dicevo, purtroppo però possono andare incontro a problemi, come vedremo, ma c'è sempre una speranza. È vero. Dottore, i tendini li abbiamo tutti, ma chi potrebbe essere interessato in modo particolare alla puntata di oggi? Facciamo un po' un profilo dell'ascoltatore che potrebbe chiamare l'800240024. Ma io credo che veramente non ci siano confini e non ci siano barriere, perché il problema tendineo, ahimè, interessa a tutti, interessa lo sportivo agonista giovane, interessa lo sportivo amatoriale che corre, per esempio, che fa attività aerobica, ma interessa anche la persona normale, interessa la persona sedentaria che lavora e che compie magari dei gesti ripetuti durante la sua giornata, e gesti che possono favorire l'usura dei nostri tendini. Quindi è un po' la puntata per chiunque, secondo me. Allora 800 24 00 24, chi invitiamo, Deborah? Donne, uomini, sedentari, sportivi, chi i tendini non li sente, chi invece è già venuto a confrontarsi con tendiniti che sono molto dolorose, magari ha stretto i denti e è andata avanti, succede spesso. Spesso per i runner, vero dottore? Naturalmente, i runner sono molto colpiti, sì. Soprattutto nella patologia del tendine d'Achille, come vedremo. E siete invitati a chiamarci all'800 24 00 24, ma come sempre anche inviarci i vostri messaggi al 349 238 6666 o a seguirci su Facebook e su Twitter. Vogliamo andare subito a sentire una nostra ascoltatrice? Certo, andiamo subito da Sandra. Non abbiamo ben capito se abbia un marito sportivo o meno. Adesso Sandra da Modena ce lo racconterà. Benvenuta. Benvenuta, grazie. Buongiorno. Buongiorno. Sì, ci dica, cosa è successo? Allora, è successo questo. Mio marito, che ha fatto molto sport, gioca a tennis, giocava a tennis, perché poi adesso ha un po' di anni, però fa molto sport, cammina molto. Le sono dati degli antibiotici per la tosse. Finito l'antibiotico per la tosse, ha cominciato a avere dei dolori ai tendini. Quindi io... cioè, se questo c'è scritto anche nel biglietto della medicina, nel famoso bugiardino. Nel famoso bugiardino, così, quindi si è messo dei cerotti così, che peraltro gli hanno anche fatto male, però io voglio sapere in quei casi qua cosa si può fare. Dottor Melegatti, dall'antibiotico per la tosse, sì, ai tendini dolenti. Sono i fluorochinolonici, questo nome è un po' strano. Fluorochinolonici. Antibiotici. Quindi c'è una relazione. Assolutamente c'è una relazione diretta, purtroppo, tra un certo tipo di antibiotico e una patologia tendinea, che in genere è una patologia degenerativa, quindi non è una patologia infiammatoria. Colpisce persone di ogni età, ma più frequentemente persone di mezza età, magari anche sportivi amatoriali, che sviluppano queste tendiniti, e soprattutto a carico del tendine achilleo. Che è quello più famoso. Che è quello più famoso. Che fare in questi casi? Bisogna fare dei trattamenti. Innanzitutto, compatibilmente con la patologia di fondo, sospendere gli antibiotici o cambiare l'antibiotico. E poi curare il tendine, vale a dire seguirlo nel suo recupero funzionale, quindi dosare i carichi, effettuare degli esercizi particolari che magari vedremo nel dettaglio, e utilizzare, perché no, terapie fisiche che sono in grado di riattivare, di rigenerare i nostri tendini. Dottore, ne abbiamo tanti diversi, lei ha citato il più famoso, il tendine d'Achille, abbiamo visto che anche alcune categorie di farmaci possono metterli in difficoltà, ma ogni tendine ha la sua voce o si lamentano in modo uguale? Cerchiamo un po' di localizzarli, chiamiamoli per nome, partiamo dalle nostre spalle, la cuffia dei rotatori, no? Allora no, ogni tendine ha la sua storia, ecco. In realtà, la cuffia dei rotatori è un manicotto capsulare tendineo che riveste la testa dell'omero e che ha una funzione fondamentale per il movimento del nostro braccio nello spazio, e quindi la tendinite della cuffia dei rotatori, in particolare di uno di questi rotatori che si chiama sovraspinato, è una patologia che noi vediamo molto spesso in soggetti di ogni età, sportivi agonisti, ma soprattutto persone avanti con l'età che a seguito o di un banale esercizio o di esercizi ripetuti, mi viene in mente ad esempio il tennis oppure banalmente il pulire i vetri della casa durante le pulizie di Pasqua o le pulizie ordinarie, e quindi questo movimento ripetuto del tendine può stressare il tessuto tendineo che viene interessato da uno stress in quel momento che eccede le capacità del tendine di resistere a quel tipo di stress, e quindi si innesca il processo di degenerazione tendinea, anche addirittura di lesione del tendine. Fortunatamente la maggior parte delle lesioni sono piccole lesioni che possono essere curate, ma possiamo anche andare incontro a lesioni importanti, lesioni più grosse. E avvertiamo un dolore quando muoviamo il braccio e quindi la spalla? Cioè, banalmente, o quando mettiamo, o quando la giacca. Infiliamo la giacca, o quando allacciamo il reggiseno. Esattamente, perfetto. Quando afferriamo un oggetto in alto, o quando afferriamo un bicchiere su una credenza o un libro sulla libreria in alto e cerchiamo di portarlo verso il basso, ci accorgiamo che questo pesa e ci provoca dolore. Attenzione, quindi provate a tirare sul braccio, ad afferrare qualcosa, tirate la cuffia del rotatore. Ecco, certo, e lì. Certo. Allora, messaggi 349-238-6666. Anche Carlo rileva che anche a lui è capitato l'incidentino lì con l'antibiotico, è durato circa un anno, ma soprattutto Teresa, dottor Meregati, ci suggerisce, parlate anche dei musicisti, in particolar modo dei chitarristi, perché? Per la postura, per le ore di studio continue in una postura che può favorire problemi tendini. In questo caso, quando si parla di chitarristi, naturalmente si parla di lunghi tendini delle mani, perché le dita vengono molto sollecitate E quindi possono subire un problema da sovraccarico, ma non mi limiterei ai chitarristi, anche i pianisti, ma anche i violinisti, perché la postura, la posizione del violino, il mantenimento del violino nella posizione corretta può favorire un sovraccarico dei tendini, per esempio della spalla, e non solamente delle dita o dei polsi. Altri musicisti, i batteristi, se vogliamo parlare di musica rock, i batteristi possono essere interessati anch'essi a problemi tendini. Allora ci serve un maratoneta oggi all'800240024, una persona che pulisce i vetri spesso. Sì, ok, esatto, tirava su e giù bicchieri e non solo. Un batterista. Che tra l'altro servirebbe anche al mio gruppo. Perché? Allora è vero, perché allora il dottor Meregati è un gruppo. Che cosa suona, dottore, lei? Io suono il basso. Io ce l'ho già. Ce l'ho, perfetto. Poi glielo dico in privato. Bene, allora, ho un gruppo per lei. Comunque, se volete candidarvi, facciamo anche le audizioni a cuore denari. 800 24 00 24. C'è Alessio che ci chiama da Roma. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno, professore. E io ho un problema, sono un ex sportivo, ex vorrei tornare ad essere, ho un problema al flessore dell'alluce che mi si ripercuoteva nella zona achillea. Io per un paio di anni ho curato questa zona pensando che fosse un problema achilleo, invece poi ho scoperto che questo flessore dell'alluce passa più o meno in quella zona lì e poi si inserisce sopra il polpaccio, e ancora ne soffro purtroppo anche quando non faccio attività sportiva. Volevo sapere come potevo alleviare il dolore oppure curare direttamente questa problematica. La tendinite dite un po' subito la quella del flessore lungo dell'allice, perché non sempre viene riconosciuta, ma con delle manovre diagnostiche precise si può veramente riconoscere il tendine interessato dalla patologia. È un tendine, come dicevo, che corre dall'alluce, passa dietro al malleolo mediale e arriva e sale lungo la gamba. Che fare? Ci sono delle terapie da affrontare. Le consiglio innanzitutto di valutare l'appoggio plantare e di verificare se non è il caso di migliorare questo appoggio con una soletta per distribuire meglio i carichi, e poi si affidi a un buon terapista che attraverso manovre terapeutiche, manuali e mediante utilizzo di terapie fisiche sarà in grado di risolvere il problema. In genere il problema si risolve con il recupero della forza eccentrica del muscolo e quindi di conseguenza anche la risoluzione dell'infiammazione del tendine corrispondente. Dottor Melegatti, il dolore durante il movimento può essere sicuramente un segnale che ci fa capire che il nostro tendine ha un problema, è infiammato o lesionato. Ma quali sono le indagini che permettono di fare diagnosi? Innanzitutto però volevo dire una cosa relativa ai tendini, molto importante, che purtroppo non sempre il dolore si manifesta, e questa è la cosa un po' meno simpatica, nel senso che esistono rotture tendine che arrivano come un fulmine a ciel sereno, cioè senza che siano precedute da alcun sintomo. Il tendine d'Achille è uno di questi, vero? Magari scendendo lo scalino. Oppure magari facendo una corsa o facendo un cambio di direzione giocando a tennis. Non voglio allarmare eccessivamente, però purtroppo in una percentuale di casi molto ridotta può succedere, e perché sta alla base di questa patologia un problema molto molto studiato in questo periodo, vale a dire la correlazione che c'è tra la tendinite, la patologia tendinea, e i disturbi metabolici. Quindi stiamo un po' cominciando a considerare il tendine non più come un organo biomeccanico, ma lo stiamo studiando anche sotto il profilo biologico, metabolico. Ecco perché in soggetti... Tendine sano, in corpo sano è perfetto, ma il dolore però molto frequentemente può essere il segno di una tendinite, se trascurata può portare alla cronicizzazione di questo problema e addirittura alla rottura, e quindi esistono delle manovre semeiologiche che gli addetti ai lavori sono in grado di effettuare con pronta risoluzione del problema, con pronta individuazione del problema. In più ci sono naturalmente dei mezzi di indagine un po' più sofisticati come la ecografia o la risonanza magnetica. Quando, dottor Melegatti, lei ha detto personale, no? Per qualificato, no? Gli addetti ai lavori, chi sono gli addetti ai lavori dei tendini? I fisiatri sono i medici dello sport, sono medici che si occupano, reumatologi naturalmente, sono medici che si occupano quotidianamente di tutto quello che sta tra l'osso e il muscolo. Esattamente, esattamente. Ivan, buongiorno, ci chiama da Milano, benvenuto. Grazie, buongiorno, tutti, complimenti per la trasmissione. Mi rilascio a un argomento che avete trattato pochi minuti fa. Io ho 51 anni, sono contento di essere ancora uno sportivo, e un anno fa circa, giocando a tennis, mi sono lesionato il tendine del sovraspinato. E anche un bel nome però, no? Certo, tutti, nome, no, per fortuna. No, è un tendine qualunque, il tendine del sovraspinato, che mi sembra... Mica la cuffia del rotatore. Al di là dei disagi che comunque procura, diciamo che il nome non è poi bruttissimo. Volevo chiedere al professore, in considerazione del fatto che ho fatto due visite specialistiche e attraverso risonanze magnetiche, un professore ha consigliato l'intervento sebbene la lesione sia minima, l'altro invece ha consigliato della fisioterapia in modo continuativo. Succede sempre così, Ivan, se si sentono due medici, il dottor Melegatti lo può confermare, e spesso si hanno due pareri che sembrano diametralmente opposti, sì, o comunque distanti. Quindi adesso noi, però, il dottor Melegatti stia pronto, perché adesso noi salutiamo Ivan e gli diciamo di rimanere in ascolto, adesso andiamo a sentire i mercati, poi torniamo subito dopo insieme e cercheremo di capire quando questi tendini si lesionano, che cosa cosa fare? Intervento oppure fisioterapia? E che cosa c'è d'altro di nuovo? Cuore e denari. Tempo, comunque vadano le cose, lui passa e se ne frega se qualcuno è in ritardo. Puoi chiamarlo bastardo, ma intanto è già andato e fino adesso niente l'ho mai fermato. Ebbene sì, la dimensione tempo è molto rilevante negli investimenti. Lo sai, Nicoletta, che c'è anche, magari ci facciamo un'altra puntata di Cuore e Denari. C'è il concetto di finanza paziente, dobbiamo raccontarlo bene ai nostri ascoltatori perché è molto bello. E del fatto della relazione importante fra tempo e investimenti abbiamo già parlato a Cuore e Denari, in particolare nell'ambito di Investire Informati per quanto riguarda gli investimenti di lungo periodo. L'argomento che abbiamo iniziato ad affrontare il mese scorso con Andrea Pennacchi, amministratore delegato e direttore generale di Ubipro America SGR, che oggi torna con noi ad Investire Informati. Quindi cominciate già a pensare alle domande che vi interessano su questo tema e iniziate a prenotarle all'800 24 00 24. Muoviti e allora muoviti. E noi ci muoviamo subito per dare voce ai nostri ascoltatori. Oggi il tema tendini in fiamma, e i tendini infatti si infiammano, ci sono queste tendiniti che sono davvero fastidiose, che possono interessare soprattutto gli sportivi, ma non risparmiano neanche i sedentari. Quindi 800 24 00 24, cercheremo di capire poi fino a quando l'utilizzo di antidolorifici può essere utile, e oltre c'è un termine oltre il quale invece può diventare dannoso. Ma dottor Melegatti, noi eravamo arrivati al nostro ascoltatore, ha sentito due medici, uno dice intervenga, l'altro invece si rivolga al fisioterapista. Lei non, naturalmente, per dare il suo parere dovrebbe valutare tutta una serie di incartamenti, ma sicuramente però è una situazione abbastanza comune. È molto comune, soprattutto in questo tipo di patologia, nella patologia nella lesione del sovraspinato, che è un tendine, che è il tendine più interessato della cuffia dei rotatori, da patologie traumatiche o da sovraccarico. E quindi capisco il punto di vista sia del chirurgo, che consiglia l'intervento chirurgico anche in presenza di una lesione minima, ma capisco di più il medico che invece dice aspettiamo, perché questa è l'opinione un po' condivisa a livello internazionale. Aspettiamo, utilizziamo le terapie fisiche di recupero funzionale più attuali e migliori, cioè quelle che danno un'evidenza scientifica di guarigione del tendine. E se dopo 3-6 mesi di trattamento non riusciamo ad ottenere nessun miglioramento, allora l'opzione chirurgica può essere presa in considerazione. Ma quello che volevo dire a Ivan era, al di là di indicare magari le terapie migliori per recuperare da questa lesione, è di valutare anche bene l'aspetto metabolico, perché esiste, come dicevo prima, la correlazione tra una sofferenza di un tendine e una patologia magari anche subclinica, come può essere un diabete, come può essere una ipercolesterolemia oppure un problema tiroideo. Questi sono tutti aspetti che vanno indagati, perché sono meccanismi che possono favorire una tendinopatia chiaramente favorita dal sovraccarico e quindi dal tennis. Quindi bisogna dire, hai un tendine un po' malandato, controllo il colesterolo, la glicemia, anche il colesterolo e la glicemia, la tiroide, poi, certo, e poi occupati del tendine nel modo migliore, affrontando il problema con, come dicevo prima, personale che possa indicare un corretto trattamento per quel tipo di patologia. Dottor Melegatti, abbiamo Valerio e Riccardo che aspettano una sua risposta, ma io volevo che lei ci aggiornasse sulle novità nel trattamento che sono, no, emerse in questi ultimi anni. Sì, in questi ultimi anni abbiamo delle novità nel campo proprio della patologia tendinea. Sta sempre prendendo più piede l'utilizzo di acido ialuronico, però fatto... Diventa un po' come il prezzemolo, sì, questo acido, sì, ialuronico. Ma sai che ho pensato la stessa cosa, fa bene per tutto. Dobbiamo considerare che l'acido ialuronico è un componente fondamentale del tendine, cioè della matrice extracellulare, cioè di quell'ambito dove sta il tenocita, e quindi l'acido ialuronico favorisce veramente l'idratazione e la normale funzione del tendine. Quindi mettere dell'acido ialuronico in modo però ecoguidato, quindi in modo mirato, non all'interno del tendine ma tra la guaina e il tendine stesso, può dare un aiuto. Esistono poi anche studi che dimostrano per esempio l'efficacia di quei cerotti che vengono utilizzati anche per le patologie cardiache, per esempio i cerotti di trinitrina. Quelli sono dei vasodilatatori molto forti e per certi tipi di tendiniti, come per esempio le tendinopatie, possono giocare un ruolo. Esistono studi che dimostrano che la miglior perfusione a livello del tendine che questo farmaco produce può favorire la rigenerazione del tendine. Per arrivare poi anche al trattamento, all'utilizzo dei fattori di crescita, se ne parla molto in questo anche periodo. Per i capelli. Ecco, lì sono un po' meno ferrato in questo ambito, ma per quanto riguarda invece il trattamento delle tendinopatie, le posso dire che cominciano ad essere pubblicati studi scientifici che dimostrano la validità sia di fattori di crescita che in minor misura anche delle cellule staminali. Stavo pensando che fra un po' scopriremo che occorrerà somministrarlo anche per fare una buona scelta di investimento, e lì avremo completato il nostro cerchio. L'acido ialuronico. Certo. Una bella crema all'acido ialuronico per vederci più chiaro. Sì. Volevo concludere invece senza dimenticare quello che è ancora il presidio più importante, vale a dire il recupero della forza del muscolo che agisce sul tendine degenerato attraverso il recupero della forza eccentrica. Il meccanismo eccentrico è un tipo di esercizio terapeutico molto ben definito ormai, che viene utilizzato in associazione anche ad altre patologie, come in associazione alle onde d'urto o anche all'acido ialuronico, e i risultati sono incoraggianti. Quindi alla domanda di un nostro ascoltatore lei ha già risposto: onde d'urto hanno una funzione? Sì, anche le onde d'urto vanno bene, vero? Assolutamente sì, ma deve esserci un'indicazione precisa. Vale a dire, la tendinite deve essere una tendinite insersionale. Se esistono delle microcalcificazioni a livello dell'inserzione del tendine, ancor meglio. Però alcuni autori estendono l'applicazione delle onde d'urto anche a quelle tendinopatie del ventre tendineo, proprio per favorire la rigenerazione e la rivascolarizzazione. Allora, abbiamo in linea Riccardo da Milano, non sappiamo se riusciamo anche a coinvolgere Valerio da Forlì, ma nel caso voi ci scrivete e noi giriamo tutto al dottor Melegati, che è lì, le sue consulenze sono preziosissime e molto ricercate. Riccardo. Buongiorno. Buongiorno Riccardo. Io ho 56 anni, sono un maratoneta che però è fermo da circa un anno, proprio perché ho avuto un problema che pensavo fosse muscolare. Ho fatto alcuni trattamenti con TECAR e laser terapia che però non hanno completamente risolto la situazione. Sono stato in riposo sostanzialmente per alcuni mesi, poi dopo un'altra attività. Io non ho capito qual era però il suo problema, Riccardo, così veniamo al dunque. È emerso questo dolore nella zona pubica, ho fatto una risonanza magnetica dove il referto parla di osteite pubica ma anche di un interessamento tendineo. Volevo capire qual era il tendine e se eventuali ulteriori terapie tipo laser o TECAR siano efficaci. Anche perché lei ha fatto ma non ha visto nulla, Riccardo, questo è un po' la dottor Melegati. Non si sa se uno se ha sparato a caso oppure se è stato mal suggerito, eccetera. Comunque lui è lì ed è fermo al palo. Diamo a Riccardo dei consigli. Non è un caso che non abbia citato né TECAR né laser né riposo. Questo perché queste sono terapie fisiche che di per sé non possono mai guarire un problema tipo quello che ha avuto Riccardo, né tantomeno il riposo, perché anche osservando riposo per mesi, la volta che ritorna all'attività il dolore si ripresenta. La patologia di Riccardo mi sembra che sia un problema complesso che noi definiamo come in una parola pubalgia, ma in realtà è una sindrome retto-pubo-adduttoria. Cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono molte strutture interessate, tutto intorno